Fahrenheit, i libri e le idee. Buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio 3 Rai e ben ritrovati e ritrovate a Fahrenheit in questo martedì 14 gennaio. Un saluto che vi giunge dalla redazione. Parliamo di pedagogia, lo spazio che dedichiamo all'educazione, alla scuola quotidianamente a Fahrenheit. Vuole approfondire un concetto quest'oggi, quello di pedagogia hacker. È anche il titolo di un libro che esce per Eleutera, firmato da Carlo Milani e Davide Fant. Davide Fant è con noi in collegamento. Lo saluto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi. Davide Fant si occupa di consulenza e formazione in contesti socioeducativi e scolastici. Allora, la tecnologia a scuola è un tema che affrontiamo molto spesso. È uno di quei temi, peraltro, che dove ci si spacca più facilmente tra apocalittici e integrali, potremmo dire, riprendendo una nota definizione di Umberto Eco. C'è da dire che la tecnologia, il mondo digitale, internet, sono tutti elementi che all'inizio della loro storia hanno sposato anche appunto un'idea, se non appunto di filosofia hacker, sicuramente di liberazione anche da vincoli possibili. Oggi però stiamo vivendo un momento, diciamo, dove forse i nostri dispositivi, le applicazioni che utilizziamo, i modelli sono decisamente più coercitivi, con strade prefabbricate, pensate appunto da grandi companies del settore, quindi dove la possibilità di scelta è molto poca. Allora, come fare a guardare ancora con ottimismo e secondo quali criteri al mondo della tecnologia? Davide Fant. Allora, hai già detto un sacco di cose che effettivamente fanno un po' il punto su quello che è la situazione della scuola e della relazione della scuola con la tecnologia, ma poi in realtà in generale della società con la tecnologia. C'è una questione di sistemi, come hai detto, nella scuola stanno entrando una serie di ambienti proprietari, perché sono delle multinazionali che in qualche modo offrono dei servizi alla scuola. Quindi la prima cosa forse è interrogarsi. Si può fare solo questo? È inevitabile? Ci sono delle possibilità alternative per creare, per utilizzare la tecnologia nel contesto didattico, nel contesto scolastico, riducendo quantomeno la presenza di questi sistemi? E questi sistemi cosa ci inducono a fare, al di là del fatto che come sappiamo raccolgono i nostri dati, che comunque offrono una casa per i nostri dati, per tutto ciò che facciamo, ma che non è casa nostra, è casa di qualcun altro. Un'altra domanda che noi ci facciamo è: sì, ma questa cosa in qualche modo spiega anche gli interventi formativi, spiega anche il modo di fare didattica? Ecco, forse la prima risposta alla tua domanda è questa. La prima risposta della pedagogia hacker è: forse bisogna farsi domande. È importante ricominciare a farci domande. Noi quando incontriamo i ragazzi, incontriamo gli insegnanti, incontriamo gli educatori, la prima cosa è: facciamoci delle domande, il famoso problematizzare che viene da Paulo Freire per noi, viene dallo stare nel problema di Donna Haraway, viene da tutta la pedagogia critica e da tutto l'approccio critico. Quindi iniziare a farsi domande. Nella scuola ci stiamo facendo delle domande, questa forse è il primo elemento. Poi se volete approfondiamo anche un po' la parte più didattica, però partire dal farsi delle domande, perché poi il problema è vero, ci sono gli entusiasti, ci sono quelli che noi chiamiamo i giurassici, quelli no, ritorniamo al calamaio e il foglio, però forse la grande divisione è tra chi accetta tutto senza farsi domande e chi si fa domande e chi problematizza. Allora proviamo a parlare un po' della prassi didattica che si può fare e che si racchiude attorno a questo concetto anche molto affascinante di pedagogia hacker, inserendo anche un'altra questione che in fondo appartiene, diciamo, forse proprio alla nascita del problema del rapporto con il mondo digitale nelle nostre società, ovvero il fatto che le nuove generazioni, le giovani generazioni sono spesso più alfabetizzate dei formatori che poi invece si trovano a condividere con loro questi strumenti. Allora le chiedo, ecco, in questa pedagogia quali prassi utilizzare, ma soprattutto forse più che un insegnamento verticale può essere un insegnamento orizzontale dove ragazze e ragazzi sono un po' sullo stesso piano, alle volte anche con qualche informazione in più rispetto al corpo docente. Glielo chiedo Fant. No, sì, il discorso è proprio questo. In realtà i ragazzi sono alfabetizzati fino a un certo punto, nel senso che un conto è che io so utilizzare un'app, io so come si utilizza TikTok, come si carica una storia su Instagram, so giocare a un videogioco, so al limite anche caccarlo. Detto questo, non è detto che io sappia cosa c'è dietro, come funzionano certe dinamiche, come queste dinamiche agiscono su di me che utilizzo lo strumento. I ragazzi spesso si muovono molto bene, ma spesso si muovono molto bene all'interno di una cornice che è la cornice che già l'applicazione in qualche modo il campo da gioco che l'applicazione gli fornisce. E in realtà stessa cosa succede per gli adulti che sono utilizzatori e che in qualche modo però anche loro difficilmente vanno oltre la cornice che l'applicazione in qualche modo, il dispositivo in qualche modo gli fornisce. Quindi la prima cosa è il centro, l'hai proprio già messo nella domanda, è quello di iniziare a fare insieme, cioè iniziare a dialogare insieme, iniziare a dirsi andiamo a vedere insieme, a cercare insieme. Ah, tu usi questo Instagram, come funziona? Noi abbiamo uno strumento che raccontiamo nel libro, è l'evocazione del demone delle applicazioni. È un gioco che ci siamo inventati, ma che in realtà nasce da una cosa molto seria, che è la cosiddetta analisi di interfaccia. Cioè andiamo ad analizzare insieme l'interfaccia di un'applicazione. Cosa c'è? E non tanto guardare i contenuti, perché l'applicazione di solito ci fa guardare i contenuti. Io apro WhatsApp e leggo il messaggio, guardo la foto che mi è stata inviata. Togliamo tutto questo, guardiamo il resto. Allora cosa c'è? Ah, i ragazzi si accorgono, c'è l'ora a cui è stato mandato il messaggio. Ah, c'è l'ora dell'ultima connessione. Ah, i messaggi sono messi all'interno di forme geometriche che sembrano dei fumetti. Tutto questo ci aiuta a capire cosa c'è nel demone di questo videogioco. Demone inteso alla greca, quindi non tanto qualcosa per forza di malvagio, però qualcosa che in qualche modo agisce, pulsa lì dentro. E quindi che cosa muove? Ah, ma allora forse WhatsApp, a partire da questi elementi, vuole che interagiamo il più velocemente possibile, vuole attivare delle dimensioni di controllo e iniziamo a scoprirlo, e lo scoprono loro, ma lo scoprono anche gli adulti. Un percorso di consapevolezza, possiamo dire, che viene fatto appunto in modo orizzontale attraverso delle comunità, delle micro comunità che potrebbero nascere anche in classe. Ma allora, prima di salutarci, le voglio chiedere, Davide Fant, quali sono, se volessimo estrapolare, tre concetti che sintetizzano un'idea di pedagogia hacker, ecco, per renderlo chiaro a chi ci ascolta. Ma sicuramente la curiosità, L'hacker è curioso, l'hacker vuole capire, l'hacker è un po' come se fosse un bambino o una bambina che gli regalano un gioco e lo vuole smontare per capire subito come funziona, cosa c'è dentro. In questo caso non solo vogliamo vedere cosa c'è dietro gli schermi, ma anche come funzioniamo noi e come funzionano in relazione agli schermi. Prima la curiosità questa e sicuramente. Poi di sicuro il gioco. La dimensione del gioco, del gioco inteso come creazione, creare qualcosa di nuovo, l'idea che c'è sempre un desiderio di inventare, di immaginare soluzioni alternative. E la terza direi che è la condivisione. Nel momento in cui io scopro qualcosa, nel momento in cui io faccio ricerca, non è mai un lavoro solitario, è sempre un lavoro che si fa insieme. E nel momento in cui si fa insieme, la dimensione dell'apprendimento, la dimensione pedagogica, diventa anche dimensione sociale e dimensione politica. Un modo per affrontare il tema della tecnologia spesso divisiva appunto tra apocalittici integrati, da chi vuole rimanere a una forma di pedagogia del passato e chi vuole invece integrare gli strumenti digitali, può essere appunto questo suggerimento. Abbiamo estratto tre concetti, ma c'è molto di più nel libro Pedagogia Hacker, firmato da Carlo Milani e da Davide Fant, che ce l'ha raccontato. Grazie per essere stato con noi. Sì, posso dire circex.org, il sito di Circe, noi facciamo parte di un gruppo di ricerca ampio, multidisciplinare, non abbiamo avuto tempo di parlarne, però devo interrompere perché dobbiamo dare la linea al GR. Ricordo che l'editore è Eleutera, noi con Fahrenheit ci ritroviamo tra poco.